Ore 12 e 3 minuti, abbiamo al telefono Mimmo Mignano che ci racconta la protesta che si è svolta questa mattina a Pomigliano d'Arco. Ciao Mimmo. Ciao. Ciao, allora dici subito cos'è successo. No, noi stamattina tre di noi, vabbè, con un gruppo di compagni che ci sostiene sotto, tra cui due cassi integrati e io che sono licenziato, siamo saliti a 40-50 metri d'altezza su un traliccio di corrente qui della telefonia, ma perché la Fiat non ci fa paura, non ci ha fatto nemmeno paura salire a 40 metri e sfidare qui megawatt di corrente, perché vabbè, noi siamo qui per rivendicare il nostro posto di lavoro, siamo qui a dire alla FIOM che nemmeno qualche giorno fa si incontrava con Renzi, che noi non ci siamo ai contratti di solidarietà. Oggi c'è un'assemblea indetta proprio dalla FIOM agli ingressi della fabbrica, dopo 5 anni di tarantelle, diciamo, e di sceneggiate, che non ha portato nulla di nuovo ai lavoratori, ai cassi integrati. Oggi la FIOM vorrebbe farci ingoiare i contratti di solidarietà, diciamo una riduzione dell'oltre 30% sul salario degli addetti Panda e dei cassi integrati. Noi non ci siamo, siamo saliti qua sopra, abbiamo inneggiato uno striscione di 20 metri dicendo no ai contratti di solidarietà, perché noi diciamo che i soldi ci sono, sappiamo dove stanno, ci sono delle inchieste dove si evince che i sindacati confederali di CGL e CISL e UIL, diciamo le associate confederazioni di FIM, FIOM e UILM, incassano la bellezza di 177 milioni di euro al mese dalle tessere sindacali, per non parlare dei soldi che percepiscono dai 7,30, per non parlare dei fondi europei su finti corsi di formazione. I soldi ci sono, ce li ha anche la Fiat, l'anno scorso ha chiuso un utile a livello mondiale di 1,7 miliardi di euro, cioè noi non vogliamo pagarla questa crisi, noi vogliamo rientrare se anche a rotazione ma a salario pieno. Queste sono le nostre rivendicazioni e li rivendichiamo a 40 metri d'altezza a un traliccio di corrente, sfidando la Fiat, sfidando questi sindacati corrotti e asserviti. E questi siamo, su questo noi a Landini ve l'abbiamo detto chiaro, noi non accetteremo mai né di essere sottopagati né sottomessi, noi vogliamo ritornare in fabbrica con la nostra dignità e con un piano industriale, ed è sotto gli occhi di tutti, lo dicono i migliori economisti a livello mondiale, che quest'anno, il nuovo anno che viene, la Fiat farà i bagagli, se ne andrà dall'Italia, ha rimasto solo macerie, ha percepito migliaia di miliardi di finanziamento e qui non è possibile che un stabilimento come Pomigliano, all'avanguardia come dice Marchionne, tiene 3.000 cassi integrati fuori. Noi i soldi ci sono e rivendichiamo che ci siano dati, noi non vogliamo più campare a 700-800 euro al mese, non ce la facciamo più a sostenere questo, ma non stiamo nemmeno qua sopra a piangere, no, questa è una sfida, sfidiamo la Fiat salendo qua sopra, non abbiamo paura di sfidare la Fiat in qualsiasi momento, e questo è un primo passo in avanti. Alla FIOM abbiamo detto chiaro e tondo che noi siamo contro i contratti di solidarietà, noi non possiamo accettare e permettere che un lavoratore che oggi è occupato in fabbrica e lavora sulla Panda, che percepisce 1.200-1.300 euro al mese, di sostituirlo con un cassa integrato ed uscire fuori a 700 euro al mese. Noi questa riduzione del 30-40% dalla busta paga non la possiamo sostenere. Se qualcuno vuole sostenere qualcosa sono i sindacati, i padroni, la Fiat, i governi, i politici. Va bene. Senti Mimmo, ma vi trovate ancora là sopra? Sì, noi siamo ancora qui e non ci muoviamo da qui, perché deve uscire questo segnale, un segnale chiaro e forte. Ci teniamo a farlo uscire e ci teniamo a dare questo messaggio. Cioè, noi non vogliamo fare una vita, non vogliamo abbassare assolutamente, drasticamente il nostro tenore di vita, che è già un tenore che ci porta solo danni economici, familiari, cioè addirittura, cioè, i primi, i soldi ci sono, li caccino, cioè ci sta poco da discutere, ci sta poco da, cioè, noi parliamo di fatti concreti, scritti, di inchieste fatte. Quindi, cioè, tu ti immagini che CGL, CISL e UIL incassano solo dalle tessere, parliamo di 15-16 euro al mese, la bellezza di oltre 400 miliardi delle vecchie lire al mese. Benissimo, diano una quota di mutuo soccorso agli operai, ai cassintegrati. Cioè, noi a quel ciccione di Angeletti e tutti gli altri che percepiscono la media di 3, 4 oppure 5 mila euro al mese, noi gli permetteremo di fare questa vita, se lo mettono bene in testa la Camusso e tutti quanti gli altri. Bonanni, Epifani. Questo è il messaggio che noi stiamo dando, e ci saranno altre iniziative ancora più forti di queste. Ripeto, noi non siamo qui a piangere. Noi non piangiamo davanti alle telecamere o davanti alle interviste. No, no. Noi lottiamo, rivendichiamo la lotta, la rivendichiamo a viso scoperto e a testa alta. Senti, Mimmo, la parabola del piano Marchionne è stata a Pomigliano davvero fulminea, nel senso che da tutte le promesse fatte nel giro di pochissimo tempo, insomma, Marchionne in pratica se le rimangiate una per una. La situazione ora è complicata non solo per i cassintegrati a zero ore, per coloro i quali sono stati esternalizzati nei cosiddetti reparti confino a Nola, ma anche per chi, no, quei 2000 operai circa che sono rimasti alla linea della Panda a lavorare dentro lo stabilimento, con la questione dei, cioè, poi c'è pure questo paradosso dei sabati lavorativi, insomma, no? Cioè, ci sono gli operai cassintegrati, però se chiede di lavorare il sabato, anche dentro la fabbrica c'è una condizione di sfruttamento micidiale, insomma. Ma io ti faccio solo un conto, ma ve lo potete fare tutti quanti, tutti quelli che ci ascoltano. Pomigliano, facciamo la media che oggi ci lavorano 3.000 persone. Da questa fabbrica escono, dati ufficiali, circa 850 vetture al giorno. Noi abbiamo fatto una media a 10.000 euro al mese, a 10.000 euro a vettura, stiamo parlando di una vettura base. Escono da questa fabbrica 3.000 operai, quanti sono? Sono 4 milioni di euro, mi senti? Quanto sì. Costano 3.000 operai? Noi ci siamo fatti i conti, noi in questi giorni metteremo a nudo tutta una serie di cose. Qua la Fiat ci guadagna un sacco di milioni, da un lato, dall'altra tiene 3.000 cassintegrati pagati dallo Stato, dalla stessa classe operaia, dai contribuenti, dai lavoratori, dai precari. Allora, cioè, il problema, sai qual è il paradosso? Il silenzio e assenza dei giornalisti, dei politici e di tutti collegati a loro. Cioè, Piano Marchionne, pure un bambino di 3 anni sa che è stato un bluff, però non esce, non lo fanno uscire, tranne se non fai un'azione eclatante, sa? E tranne se questa azione eclatante non ha la visibilità e se qualcuno vuole dargli la visibilità, cioè, capito quello che ti voglio dire? È un problema serio questo, cioè, è mai possibile salire a 40 metri, sfidare la vita, tra la vita e la morte, per mettere a nudo il bluff Marchionne? E io penso che qualcuno dovrebbe incominciare a ragionare su questo fatto. Qua ci sta il 90% del gruppo Fiat che sta a cassa integrazione, però la Fiat continua a fare utili, continua a fare miliardi, continua a fare gli imbrogli, continua a prendere per i fondelli i lavoratori e tutto il resto. Cioè, noi vorremmo capire, ma ci sta qualche politico, qualche magistrato, con le palle che mette a nudo questo fatto. Ma gli agnelli, quanti miliardi si sono portati all'estero, in Svizzera, e nessuno mai, nessun magistrato, da Di Pietro a tutti quanti gli altri, hanno aperto un'inchiesta sulla Fiat. E lo disse Craxi, prima di scappare in Tunisia, disse: ma come mai non si indaga sulla Fiat? Allora c'è un problema serio, che lo Stato nello Stato, e poi strapotere Fiat, staccate i giornalisti, a tutti quanti, c'è questo problema serio. Siamo costretti a fare queste azioni eclatanti per cercare un attimo di avere un pochino di visibilità e mettere a nudo i nostri problemi. Senti, ma ci sono stati degli effetti questa mattina? Anche no, appunto... sicuramente è venuta. No, abbiamo dichiarato un'ora di sciopero, abbiamo fatto un presidio ingresso principale pacifico, dando volantini, sensibilizzando gli operai che stanno dentro, facendoci capire. Oggi diciamo che la stampa ci ha dato un pochino di visibilità, perché abbiamo visto a questo che abbiamo visto un sacco di fotografi. Dipende sempre dalla Fiat se impone o meno di fare uscire una notizia, se impone o meno di fare delle cose. Quindi noi stiamo qui, attendiamo, e ti garantisco che se vedi le foto, veramente abbiamo rischiato, siamo saliti qui rischiando di portarci via la pelle. Noi non siamo per portarci via la pelle così, noi non la buttiamo la nostra vita in queste cose, però è un segnale che dovevamo dare a loro, alla Fiat e ai loro sindacati. D'accordo, e mi raccomando, fate attenzione lassù. Ci teniamo alla nostra pelle, ci teniamo. Va bene. Okay. Ciao Mimmo. Ciao.